La contemplazione. Anima cara, la contemplazione, lo sai cos'è? È sabbia e sale, e deserto e passione, un picchio zoppo, una soffocazione, pane splendente e blanda esaltazione, durata senza fretta, brevità. Dolce anima amica, qua lo sai come ci folgora quel passo d'Agostino che così sordo canta noli, fora, sire, con voce calma, calda, tanto da transire oltre parve esperienze di felicità e più vasti tormenti, ma questi e quella, vana cosa dire, nel celestiale cavo, latitando le menti.